24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. Sì, iniziamo con queste note un po' così sdolcinate. La solitudine di Laura Pausini, perché ma chi è che si sente solo secondo i giornali, eh? E si sente solo l'uomo che deve tagliare tutto, le spese. Quel Cottarelli che abbiamo chiamato a Washington, gli abbiamo detto vieni qua per favore che c'è da rivedere i conti dello Stato, c'è da recuperare dei soldi, c'è... Oh, pare che nel giro di 10 giorni già Renzi l'abbia impallinato. Tutti i giornali da ieri raccontano la solitudine di Cottarelli. Ieri Renzi l'ha incontrato, Cottarelli, l'altro ieri gli ha detto ma perché non tagliamo le pensioni, Renzi? No. E poi ancora su Repubblica, Renzi, guarda che 34 miliardi di revisione della spesa sono troppi, al massimo ne faremo 20, insomma, abbiamo scherzato, chi lo sa. Boh. E vabbè, Cottarelli si sente solo. Cari italiani, siamo qui alle 6.33 minuti, questo è 24 mattino, nel giorno in cui si chiude la 46esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Che dire, vogliamo subito... Ah, saluto Elisabetta Fusconi oggi in redazione, qui dalle 6, insieme al nostro alpino Peter Bescapè. E vogliamo aprire il Parlamento? Sì. A un caffè si può avere? Sì. Caffè volentieri a tutti quanti. Allora, oggi nel nostro Parlamento intanto voglio salutare... Vabbè, Mariona Dinolfi è qui. E se, Marione? La solitudine anche della Juventus in Europa. Salutiamo l'unica squadra qualificata per i quarti di finale di una Coppa Europea. Grazie. Mamma mia, che noia, ragazzi. Che noia. La solitudine, pensava tutta lì l'introduzione, mi dici Cottarelli, che noia. Che noia. Che noia tu, mamma mia, sta storia della Juve, mamma mia. Solo che ti, la Juve, che dice, ti inventi quanti punti, ti inventi ste cifre, quant'è? Altro? 40 adesso. Ma 40 che? Erano 37, sono diventati 40. Ma 40 cosa? Ti distacco dal Milan. Smetti, ma non è vero, ma non è vero. Allora Marione, ti voglio presentare, non l'ho lasciata come seconda perché non sono cavaliere neanche io, ma perché la prima volta che arriva al Parlamento, sai che abbiamo Marione Dinolfi con noi? La star di oggi, che si è dovuta svegliare alle 6:30. La star. Dalle 6, subito corregge, Maria Latella, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Bisogna avere un fisico speciale. Eh sì, alla Dinolfi, bisogna dire, per essere qui alle 6:30. Cara Maria Latella, grazie per essere con noi, collaboratrice del Messaggero, poi conduce le interviste su Sky, TG24, e poi anche a Madonna, sai dov'è Adinolfi? A Madonna di Campiglio, mentre noi... A sciare. immagino tra una cosa e l'altra, ma dopo spiegheremo perché. Allora, la solitudine, vabbè, della Juve. Ma Maria Latella segui il calcio? No. Per niente. Però sono stata in passato un'appassionata tifosa della Roma. Ah, e vabbè. Sì, quindi... Perché mi è sempre piaciuta la coreografia che fanno allo stadio. È una cosa puramente estetica. Eccola, puramente estetica. E va bene, insomma. E vabbè, ma Marione avrà qualcosa da dire anche sulla Roma, ma no, non voglio saperlo. Allora, al di là della solitudine questa cosa di Cottarelli, però effettivamente è da capire un po', eh. Cioè, adesso al di là, Mario, della Juventus, che chi se ne frega. Ma Cottarelli davvero è stato abbandonato a se stesso? Così racconta i giornali. Sentiamo. Cottarelli deve capire una cosa. Tra 2 mesi ci sono le elezioni. mi fa sempre una cosa strana, capito? Sì, sì. La gente va a votare Renzi, ha disperato bisogno di avere una legittimazione popolare. Allora, Cottarelli non rompa i coglioni per due mesi, dopo si vede, insomma. Ecco, vabbè, è una cosa molto semplice, gli ha detto Renzi, non è che gli ha detto una cosa complicata. Dire oggi vi taglio le pensioni, tu capisci, non è proprio una... Ma l'ha detto proprio così? Gliel'ha detto proprio così, secondo te? Penso di sì, penso che conoscendo il ragazzo... Per due mesi non rompere i coglioni. No, però, Maria Latella, siamo andati a prenderla a Washington, voglio dire, potevamo lasciarlo... Ma e soprattutto per alcuni anni gli stessi magari giornali che ora... non proteggeranno la linea di rigore di Cottarelli, però insomma per anni questi giornali ci hanno insegnato col ditino alzato che bisogna saper essere severi, dire la verità all'opinione pubblica, che non bisogna viziarla, e che per anni, per vent'anni Berlusconi ha raccontato che cadevano gli zecchini d'oro dagli alberi e che gli italiani creduloni hanno inseguito questa cosa. Adesso quando è arrivato il momento di dire la verità, ecco, non la vogliamo dire più, non la vogliamo sapere. No, infatti sì, però effettivamente a due mesi dalle elezioni dire tocco le pensioni, perché pare sia questo, cioè gli ha detto bisogna toccare le pensioni sopra i 26.000 euro, che sono tra l'altro l'1% delle pensioni, e Renzi gli ha detto no, caro Cottarelli, questa cosa non si può fare, insomma, sotto elezioni. Effettivamente è un po', come dire, un po' scomoda, Maria, da gestire, no? Sicuramente anche Angela Merkel non ha preso misure che andassero contro l'opinione pubblica tedesca nella sua campagna elettorale, però combinazione non ha preso misure che sarebbero andate forse andate bene per altri europei. Sì. Quello che dico è che quando Schröder ha deciso che per sopravvivere all'unificazione tedesca era necessario fare delle riforme, lacrime e sangue, ci ha rimesso le hanno fatte. A proposito d'Europa, caro Marione, hai visto, sono tornati i risolini. Ci ridono dietro. Ci ridono dietro, come all'epoca Sarkozy e Merkel a Berlusconi. Diciamo che ce li meritiamo tutti. Eccolo là subito, l'italiano. Il conto italiano sul serio, l'idea del paese cialtrone, insomma, visto da fuori, è inevitabilmente. Ma dai, ma perché? Ma perché è così? Vuoi non fare il patriottico? Io proprio no. Psicopatici i nostri ascoltatori del mattino. La verità è che siamo un paese cialtrone, insomma, da tutti i punti di vista, dal punto di vista della finanza pubblica, proprio in maniera colossale e palese. Siamo sempre quelli del ma adesso la famosa promessa del bambino moccioso che fa le marachelle. Ma io la lettera a Babbo Natale è sempre da lo facciamo, lo facciamo. No, praticamente sì, c'era, stava arrivando in Europa Renzi, ha fatto un cronista una domanda sui conti pubblici e Van Rompuy e Barroso si sono guardati, Maria, li hai visti che si sorridevano a dire i conti pubblici italiani, no? Ma ho capito, ma ci devono sempre prendere per il culo così, questa è la verità. Ma non è una questione soltanto, io non credo che sia una questione di mostrarsi apparentemente seri, severi, appunto non fare le corna nelle foto opportunity, eccetera. È una questione che forse non siamo coerenti tra quello che diciamo in patria e poi quello che dobbiamo andare a discutere a Bruxelles. Però non lo so. È vero che dicono che Barroso è in scadenza, che quindi non è l'interlocutore che durerà nei colloqui futuri tra Italia e Bruxelles. Però intanto c'è lui, l'ha vista bene D'Alema, mi sa. D'Alema pare che abbia detto a Renzi due giorni fa: ma sì, ma sforiamo, tanto quelli stanno scadendo, la Commissione Europea ce la vedremo con i prossimi, chi se ne frega, Adinolfe, questo dà l'idea, appunto. Questo fa capire il paese che siamo, fa capire il paese, no, anche l'adesione di fretta e furia del PD al PSE, perché intanto viene dato per vincente Schulz nelle elezioni continentali, quindi prossimo presidente. Ovviamente le logiche politiche hanno un senso. Il problema serio è che veramente i conti italiani sono da libri in tribunale, quindi non possiamo arrabbiarci se non veniamo considerati al massimo della credibilità, se quando presentiamo quel livello di debito pubblico, quei livelli di disoccupazione, quei livelli di produttività, insomma non siamo i tedeschi, è abbastanza no, e non siamo neanche i portoghesi, attenzione, notoriamente meglio di noi portoghesi, ma non i portoghesi lo sanno, hanno fatto delle riforme draconiane, terrificanti, adesso hanno un tasso di crescita tra i più alti d'Europa, eccola, sono terrificanti, veramente terrificanti le riforme portoghesi, ma l'hanno fatta. Vabbè, allora qua se dobbiamo venire in Italia i due protagonisti della politica sono sempre quelli, Renzi perché adesso è premier e Berlusconi, Maria Ratella, tu li conosci, insomma. Allora intanto la domanda è questa: Berlusconi, chi è che si candida lì? Non si capisce. Marina per Silvio, Barbara, non si capisce. Dudù, non lo so, la Pascale, qualcuno si dovrà candidare. No? Penso che non si capirà fino all'11 aprile. Perché il 10 aprile la sentenza. Delle sì. ipotesi che non sono in nessun caso fondate. Adesso, ieri c'era la candidatura di Pier Silvio Berlusconi che era stata lanciata, stamattina no. già viene ritrattata perché appunto non sembra che il secondogenito di Berlusconi abbia intenzione di lasciare le aziende per correre a Bruxelles, anche perché di questo stiamo parlando, cioè c'è un gigantesco equivoco, non è che se si candida oggi uno dei figli di Berlusconi poi questo diventa il leader di Forza Italia. No, ma infatti, cioè, voglio dire, proprio per il nome Berlusconi, ma tu che li conosci bene, ma tu hai scritto anche di Marinella, no? La storica segretaria che è stata un po'... Sì. Ma no, cosa... che non lavora più ad Arcole. Ma che succede? Oggi la Pascale fa un'intervista a Repubblica dicendo ma che io non decido niente, decide tutto lui. Ma è davvero secondo te un po' così già gli arresti domiciliari che non decide più nulla? Io non conosco Francesca Pascale, ho visto anch'io l'intervista a Repubblica e però appunto non sono in grado di fare alcuna valutazione perché non sono al corrente su cosa decidono di quello che succede. Non si capisce. Vabbè, insomma, ecco, mi limito a leggere. Vabbè, tra l'altro oggi Berlusconi si scopre su Libero. Attenzione, caro Mario Dinolfi, dovrai chiamarlo ancora il cavaliere, sai? Ah, sì? Eh sì, perché è cavaliere di prima classe dell'ordine della Stara Planina in Bulgaria, cavaliere di Gran Croce dell'ordine reale norvegese al merito, cavaliere di Gran Croce dell'ordine della Stella di Romania e cavaliere dell'ordine Piano in Vaticano nel 2005. Quindi, meraviglioso, tutto a posto. Comunque ricordate, non si cambia nessun figlio di Berlusconi, non succederà. Non si candida nessun non figlio. Si candida nessun figlio. Questo vaticinio di Adinolfi da dove ti viene? Questo? Ma perché si rompono gli equilibri familiari se se ne candida uno, quindi Pier Silvio ha già detto no, si poteva candidare il maschio così nella logica dinastica volendo, ma a quel punto candidare Barbara diventerebbe anche lì un incoronare un primus inter pares che prende la politica del genitore, lì c'è questione di ciccia, di soldi, roba seria, quindi nessuno farà la mossa essere messo in quelle condizioni, diciamo, di primus inter pares, né nella questione esporsi a rischi, perché poi come sappiamo in Italia l'esposizione politica è anche a brutte figure secondo me, perché la politica è una cosa seria, complicata, devi parlare, insomma non so se è materia per loro. Ma poi il concetto se lo chiede anche Michele Serra e vorrei sapere anche da voi, ma se uno vede il nome, cioè un elettore di centrodestra vede il nome Berlusconi, cioè il cognome Berlusconi, per questo... Ricorda, questo è l'unico motivo. Ho capito, ma per questo vota Forza Italia. La legge europea è l'unica legge che prevede ormai le preferenze in Italia, a parte quelle diciamo locali, quindi il fatto di poter fare un'imbarcata di un paio di milioni di voti con schede Berlusconi avrebbe un senso. Vuol dire che confermi questa teoria. Uno vede il cognome Berlusconi, che sia per Silvio, che sia Marina, che sia Barbara, e per questa stessa cosa, cioè perché legge Berlusconi vota per l'adesione anche alla, diciamo così, all'idea che la magistratura abbia commesso nei confronti di Berlusconi. Cioè, la campagna sarà quella di Forza Italia, tra l'altro secondo me inefficace. In Forza Italia farà un bagno di sangue alle elezioni, la vera opposizione diventa lo 5 Stelle, l'alternativa a Renzi è il Movimento 5 Stelle, non Forza Italia. Pensi così anche tu, Maria? Credo che il Movimento 5 Stelle sia visto in questo momento come quello che è meno contaminato dalle scelte, dalle mancate scelte, dagli errori degli ultimi 20 anni. E dunque se un voto è di protesta e di alternativa certamente sì, non va nella direzione di Forza Italia. Allora a Forza Italia di sicuro fanno capo quel 15% di voti che sono di Berlusconi, che sono Berlusconi, di persone che sono convinte di aver tratto un vantaggio dall'aver avuto molti governi Berlusconi in questi anni. Qual è la, come dire, la suggestione che potrebbe esserci nel candidare uno dei figli? È quella che ha funzionato già per altre tradizioni familiari. Guardate che non è tanto diversa la situazione nell'America degli anni 60, quando uno dopo l'altro si candidano i Kennedy. Certo, era una dinastia diversa, poi insomma avevano fatto una gavetta nel feudo di famiglia, Boston e dintorni, però c'era comunque la concezione che il nome Kennedy fosse questo, una garanzia. Certo. Allora, intanto in TV ripassano il gol di Pirlo della Juve. Siamo solo noi, la colonna sonora di oggi è Vasco Rossi. Allora, andiamo a sentire, non neanche più ad ascoltare, andiamo a sentire il traffico, poi c'è la parte più amata da Maria Dinolfi, la segreteria telefonica dei nostri ascoltatori. Rientriamo con Maria Dinolfi e Maria Latella. 24 mattino. Orecchi, ma mai deluso, mai deluso. Stai diventando amico di quel balordo di D'Alema e compagni, ma via per piacere. Ma non le volevi rirotta, ma D'Alema, la Bindi e compagnia bella, tutti quei sardoni, ma che ci stanno a far rompe coglioni? Un hanno presi abbastanza? Mandali via per piacere. Io aspetto, capano, sua eccellenza, padrone spadito. Io mi sono messo a cantare perché sono ricco, ho 1400 euro lordi di pensione, e capite? E che ce la mandiamo a fare? Adega furcone, come fa la rivoluzione? Se metti Francesco al Quirinale, le cose non andrebbero assai male, ma se mandi Giorgio in Vaticano, lì non farebbe manco il sacrestano. Finalmente Pippo Baudo ha messo in luce la sua vera natura, che ha mistificato per tutta la sua carriera. Quante gliene saranno passate nelle sue trasmissioni degne di tale qualifica? Allora erano il suo pane e speriamo solo quello. Hanno deciso che ai pensionati non devono dare quei famosi 80 euro di aumento mensile, però prelevano anche i pensionati tramite l'aumento del prelievo fiscale dal 20 al 26% i soldi per pagare gli 80 euro. Maledetti vadri, ladri e vampiri. Ciao Milan, il vero problema dell'Italia, mica è la crisi, tutte queste cose qua, il vero problema è il Milan. Noi juventini, cioè, ci divertiamo troppo a vedervi soffrire, però ci dispiace anche un po'. Dai, forza, forza Milan, dai. Grazie, grazie. Marione, ti piace un po' di più oggi la segreteria telefonica? Simpatica. Bravo, bravo, simpatica. Vabbè. Allora, intanto vogliamo sentire Brunetta, che poi dobbiamo svelare, perché noi stiamo qui a soffrire, invece Maria Latella è a sciare, a Madonna di Campiglio. Brunetta. Il nome di Berlusconi sul simbolo ci sarà? Ma penso proprio di sì, è un marchio di successo, è un brand di successo, mai mollare i marchi di successo e i brand di successo come la Coca-Cola. Eccolo lì, è come la Coca-Cola, è abbastanza chiaro. Allora, Maria Latella è a Madonna di Campiglio, ma è vero che c'è neve ancora? C'è neve, sciano gli altri, eccola. Comunque... segnalo che appunto in prima pagina su Corriere della Sera c'è un pezzo sul fatto che ormai si scia. È vero, anche è vero, fino a maggio. Qui a Madonna di Campiglio, in effetti, chi è arrivato oggi, arriva anche domani, per il convegno Il potere delle donne conterà da viscerare. No, ma è chiaro, è chiaro. Allora, Il potere delle donne da oggi fino a dopodomani, dal 21 al 23 marzo, ci sono tante donne. Tra l'altro un tema molto interessante questo sulla politica, no? Visto che declinerete anche la questione delle quote rosa di no, intanto non le chiameremmo mai quote rosa, perché mai. La platea, che sarà anche composta da manager e professioniste che sono legate all'associazione Valore D, ecco, se le chiamassimo quote rosa subito mancherebbero il sopracciglio, e le chiamiamo quote di genere, però parleremo di politica, ma anche di media, perché per esempio nella seconda giornata ci sono tantissimi giornalisti, Paolo Mieli, Corrado Formigli, Alessandra Sardoni, la columnist del Financial Times, Heather McGregor, quella che fa la column Mrs. Moneypenny, e poi una giornalista davvero speciale che è l'ambasciatrice americana Linda Douglas, la moglie dell'ambasciatore, che è stata una giornalista politica di grande rilievo a Washington per molti anni, a capo della ABC, e poi è stata anche nella comunicazione di Barack Obama alla Casa Bianca. Capito, questa Madonna di Campiglio. Maria Di Nolfi, tu ti occupi della Juve, vai in tram, fotografi le facce, vedi? Tante donne poverine che vanno a lavorare, no, ma quando una quote rosa, altro che quote rosa, no, infatti c'è quote rosa, ho detto abbiamo già detto che non si dice, abbiamo detto, ma anche tu Mario, non si dice quote rosa, Mario, impara questa, quote di genere su questa cosa Maria, guarda che Mario è arrabbiatissimo e non me lo scherzerò. Rosa è sminuente, ecco, è riduttivo, ecco. E poi non riguardano solo le donne, perché stabilire un principio di parità inserisce un elemento di merito che va bene per uomini e per donne. Hai capito, cioè, Mario? Ma è una fregnaccia, No, io mi devo fermare qui, ma una domanda ce l'ho, ma Maria Di Nolfi, ma quando fai le foto sul tram lì che poi vai? Ma non è... Nessuno mai ti dice. Mai, perché mi vogliono bene, lo sai, mi vogliono bene sul tram, sì, vedono che sono un lavoratore da tram, quindi insomma, mi vogliono bene. Quindi accettano questa. Di che parli tu alle 8 su Radio Yes? Parlo della Juve. Ma che della Juve, ma aspetta. 90 minuti di Juve. Mamma mia. Aspetta, scherzo, mi occupo anch'io di queste cose, di una spending review, eccetera. Vabbè. Allora ringrazio, ma cos'è questo? Ma tiralo via, l'inno della Juve, ma smetti, buttalo giù, dai. Tira giù l'inno della Juve, ma che ci frega? Allora saluto Mario Di Nolfi e ringrazio Maria Latella per essere stata con noi, ricordo Il potere grazie delle donne, a Madonna di Campiglio, da oggi fino a dopodomani, È tempo di giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Ci siamo anche oggi alle 7:17 minuti, caro Peter Bescapè, cari debosciati d'Italia, ci siamo con Sveglia alle 5, ma il Papa si sveglia alle 4 e dunque c'è poco da lamentarsi, ricordati caro Alpino, poco da lamentarsi. Quante ore hai dormito oggi tu? 3:30, come me, no io 4. Non è che abbiamo dormito insieme, però no, diciamolo, perché sennò sembra io un po' di più, 3:40 circa, 3:45. Va bene, cari italiani, cari debosciati, siamo qui alle 7:18 minuti, oggi parleremo di che? Parleremo intanto di questo mistero sugli affitti, gli affittopoli della Camera, questi 32 milioni di euro che si spendono per gli affitti e non si capisce bene perché, e non si capisce bene soprattutto se si riescono a bloccare questi affitti della Camera dei Deputati. Storia di casta. Parleremo anche di questa vicenda del Veneto, dove c'è un referendum che non ha valore legale ovviamente, ma ci sono centinaia di migliaia, forse addirittura 2 milioni, non so, di veneti che sono andati a votare per chiedere l'indipendenza della regione Veneto. Ripeto, è una questione, se volete, qualcuno la dice di colore, certamente non ha un valore legale, però insomma cercheremo di capire, perché si può votare fino ad oggi, e se questa iniziativa è davvero un qualcosa di serio oppure no. Questo alle 8.45 avremo il presidente del comitato referendario plebiscito.eu per l'indipendenza della regione Veneto. Ora andiamo a leggere i giornali. Questo venerdì 21 marzo i titoli sono quasi tutti declinati dei maggiori giornali sulla questione Unione Europea. Il Sole 24 Ore apre così: l'Unione Europea, Roma rispetti i vincoli. Per il Corriere della Sera, duello Italia-Unione Europea sui vincoli. Repubblica, Renzi, braccio di ferro con l'Europa. Per il Messaggero, Renzi, Unione Europea, battaglia sui vincoli. La Stampa, Renzi, Unione Europea, sfida sul bilancio. Il Giornale ha messo questi risolini che ci sono stati ieri tra Barroso e Van Rompuy a una domanda sui conti pubblici italiani. Ricordano anche i risolini un po' più celebri tra Merkel e Sarkozy su Berlusconi, e il titolo del giornale è: Europa ingrata, ridono anche di Renzi. Per il Manifesto la foto è di Renzi e Barroso, il titolo è: vincolo cieco. Mentre Avvenire, l'Unione Europea ci dà credito, resta il duello sui vincoli ma prevale la fiducia. Quindi un po' più di ottimismo su Avvenire, almeno nel titolo di prima pagina. Per il Fatto Quotidiano, Renzi è nella tenaglia tra Barroso e Carrai. Spunta in prima pagina quella che era l'inchiesta di Libero da qualche giorno, la vicenda di Carrai, cioè imprenditore, amico di Renzi, è colui che per alcuni mesi ha ospitato Matteo Renzi nella sua casa a Firenze. Inchiesta che è sfociata in procura, tanto che Libero torna evidentemente in prima pagina con questa vicenda: l'attico che scotta, la casa gratis di Renzi finisce in procura. Europa, la battaglia dei vincoli, è invece il titolo dell'Unità. Come vedete, sull'Europa soprattutto si concentrano le prime pagine di giornale, visto che Renzi ieri era lì a parlare con i responsabili della Commissione Europea, un'ora e mezza di colloquio con Barroso proprio durante Juventus-Fiorentina. Fiorentina-Juventus li hanno proprio fatta penare, soprattutto visto poi com'è finita la partita. Ma io voglio partire da che cosa? Beh, ieri l'abbiamo letto, Adriano Celentano, con tutti i suoi appelli scritti in maiuscolo sul Fatto Quotidiano, soprattutto le accuse a Oscar Farinetti, imprenditore, anche in questo caso si dice spesso vicino a Renzi, che ha aperto Italy al Teatro Smeraldo, o meglio all'ex Teatro Smeraldo, uno dei teatri storici di Milano. Oggi Oscar Farinetti, intervistato dal Fatto Quotidiano, si sfoga e dice: mi odia, Celentano mi odia, ma io non so perché. Anche lui è affetto dal più grande male di questo paese: criticare sempre. Ma se è offeso Farinetti, ma non ho neanche letto quello che ha scritto, me l'ha raccontato mia figlia. Per carità, capisco il suo altissimo intento, ogni parola che distilla dal suo preziosissimo pulpito è da tenere nella massima considerazione. Al che il Fatto chiede: ma che fa Farinetti, prende in giro Celentano? Ma per carità, no! Ma lo sa quanti teatri e quante librerie chiudono in Italia perché la gente perde il lavoro, non ha più il reddito sufficiente per permettersi di andare a teatro o comprare libri? Se gli stava così a cuore il Teatro Smeraldo, poteva farsi avanti, rilevarlo lui. Sono convinto che avrebbe avuto le risorse e le capacità per farlo. Oltretutto credo che Gian Longoni glielo avrebbe dato molto volentieri. Io mi sarei immediatamente fatto da parte, avrei fatto Italy in un altro posto subito, con la stima che ho di lui, figuriamoci se mi mettevo in mezzo. Insomma, Farinetti mi pare offeso, chiede il Fatto. Ma no, io non mi offendo mai, accetto le critiche, fanno bene, aiutano a crescere. Poi sulle accuse solite, anche quelle di Celentano, di vende salsicce in un tempio della cultura. E allora io cerco di guadagnare, non c'è dubbio, sono un mercante. Anche Celentano mi risulta si faccia pagare bene per quello che fa. Non ci vedo nulla di strano, anzi, in fondo lui è un fuoriclasse, ci mancherebbe. Io sono un mercante, devo fare soldi, altrimenti come pago i miei dipendenti, come pago le tasse? Vendo salsicce? Certo, vendo salsicce. e credo di essere uno che mette sempre un pizzico di poesia accanto a quello che fa. Le nostre salsicce sono fatte con carni scelte della Granda, cioè la provincia di Cuneo, sono pagate ai produttori molto bene, il 32% in più della media, perché il lavoro va rispettato e valorizzato. Sa cosa le dico? Se Celentano venisse da Italia e assaggiasse la nostra salsiccia, sarebbe entusiasta. Alla fine c'è la domanda anche un po' maliziosa, più che altro nei confronti di Celentano, di Stefano Caselli, del Fatto, che chiede: ma senta, si dice che Claudia Mori volesse entrare in società con lei e che Adriano glielo abbia impedito. Non so nulla e non ho nulla da dichiarare in merito. Conosco Claudia Mori, è una persona squisita, ha fatto con noi una splendida lezione sulla famiglia a Fontana Fredda, del resto non so niente. Insomma, adombrare il sospetto che ci siano questioni molto più banali, quasi familiari, nello sfogo di ieri di Adriano Celentano nei confronti di Oscar Farinetti, chi lo sa, come tutte queste vicende italiane, domani, se non alle 8:15, ce ne saremo già dimenticati. Allora, io come sempre dico il solito appellativo, il solito mantra: se siete in macchina tenete le mani ben strette sul volante, se dovete leggere la notizia che Libero mette in prima pagina e riguarda quella che viene definita tele Boldrini. La Boldrini si fa la TV personale con l'ok dei grillini, questo è il titolo di Libero. Castano limits, non bastavano le tribune parlamentari, la diretta del Question Time, insufficiente la web TV, così come i due canali di Camera e Senato che trasmettono su piattaforme satellitari in chiaro. La politica italiana pensa di non essere sufficientemente presente sul piccolo schermo. Per colmare questo gap ha avuto un'idea geniale: crearsi un proprio canale televisivo. Scrive così Libero Paolo Emilio Russo. A prevedere tutto ciò il contratto di servizio RAI 2013-2015 del Ministero dell'Economia e di Viale Mazzini, approvato già da due giorni all'esame della Commissione Bicamerale di Vigilanza, dove al punto U della bozza di accordo si prevede l'istituzione di un canale di informazione istituzionale. La commissione Vigilanza RAI, scrive Libero, presieduta dal grillino Roberto Fico, ha modificato la definizione e la bozza di contratto, che non sarà approvata prima della settimana prossima, recita così: la RAI è tenuta a presentare entro 6 mesi un progetto di canale istituzionale dedicato ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle commissioni. Per carità, la si può leggere come una questione di massima trasparenza, ma Libero invece dice è l'accordo per creare un canale che trasmette i lavori delle commissioni di Camera e Senato, insomma una nuova tele Boldrini, viene definita così dal nome ovviamente della Presidente della Camera. Vabbè, visto che siete forse al volante, visto che forse state per entrare in macchina, almeno una buona notizia. Ve la posso dare una buona notizia, visto che sennò mi criticate sempre dire i giornali, ma i giornali sono questi, non è che me li posso inventare. Una buona notizia è questa: avete parcheggiato sulle strisce blu, quelle zone delle città dove si può pagare a ore il parchimetro. Siete arrivati un po' in ritardo, avete messo il parcheggio pagato, che ne so, fino a mezzogiorno, siete arrivati a mezzogiorno e mezza e vi siete trovati una bella multa. Sappiate che quella multa non è valida. Strisce blu, niente multa per chi sosta oltre l'orario pagato. È Repubblica con Maria Elena Vincenzi che ne parla, pagina 25, una notizia che riguarderà e interesserà tutti gli automobilisti. Pagare la striscia blu e trattenersi oltre al tempo si può fare senza aver paura di prendere la multa. Lo ha detto il ministro Lupi in persona, è una questione che andava avanti da tempo, le associazioni dei consumatori avevano già protestato varie volte. Il problema è molto semplice: è stare in ritardo sulla striscia blu non è una norma di comportamento che contravviene al codice della strada, ma solo una inadempienza contrattuale tra voi e il comune. Il massimo che potranno chiedervi è la differenza tra quanto avete pagato e quanto invece dovevate pagare perché siete arrivati in ritardo. Solo quello, non un euro in più. Al limite, c'è scritto, c'è qualche multa prevista dal regolamento comunale, cioè una maggiorazione della tariffa se vi siete attardati a recuperare la macchina, ma non c'è alcun diritto di lasciare la multa sul tergicristallo, questo da parte dei vigili urbani. Avete capito, cari cittadini? Adesso me li vedo, la gente che fa? Mette la macchina sulla striscia blu alle 10 del mattino, paga mezz'ora e dice: ma io la riprendo alle 20, alle 21, ma chi se ne fotte, tanto la multa non c'è più, al limite mi verranno a chiedere quei 4-5 euro in più perché ho sostato di più, eh? Bravi italiani, vi vedo già lì pronti con i vostri, con i canini affilati contro i vigili urbani a pensarla così, bravi, bravi, debosciati. La rassegna stampa di Alessandro Milan è come una medicina amara, sgradita ma necessaria. Beh, che filosofia, che filosofia. Allora, alle 7:33 minuti, cari italiani, come detto, la maggior parte dei giornali apre sui rapporti tra Italia e Unione Europea. Ieri Renzi era al Consiglio Europeo. E tutti fanno notare, insomma, che da Barroso, da Van Rompuy, dalle autorità massime europee c'è stato l'invito a rispettare le regole, no? Questa frase che viene sempre ripetuta: rispettare i vincoli europei, rispettare le regole. Molti giornali anche sottolineano questi sorrisini, quando è arrivata una domanda da parte di un giornalista sui conti pubblici europei a Barroso e Van Rompuy, hanno sorriso. Ricordate il sorriso anche un po' di scherno, certamente, tra Sarkozy e anche la Merkel quando c'era Premier Berlusconi? E tanto che oggi il giornale titola proprio in prima pagina così: ridono anche di Renzi. Repubblica. In prima pagina e poi continua a pagina 2 l'articolo di Alberto D'Argenio racconta proprio a partire da questo episodio. La giornata di Matteo Renzi a Bruxelles si apre con un sorriso amaro. Mancano poche ore al via del primo summit europeo del premier italiano quando un cronista chiede al presidente della commissione, a quello del Consiglio Europeo, cosa pensino della sua intenzione di portare il deficit dal 2,6 al 3%. Barroso e Van Rompuy si guardano, sorridono, quasi a non volersi prendere la briga di commentare una proposta che non piace a Bruxelles, ma che mette in imbarazzo a due dirigenti chiamati dal Galateo a essere accomodanti verso un leader al debutto. Alla fine prende la parola Barroso, che di lì a poche ore ha in calendario un bilaterale proprio con Renzi, e dice: è importante per la fiducia nell'Italia e nell'Europa che si rispettino tutti gli impegni firmati e ribaditi in questi anni. L'arrivo di Renzi poco dopo viene definito dalla stessa Repubblica in questo articolo piccato: l'Italia sta rispettando tutti i vincoli. Poi si tuffa in auto, va al quartier generale della Commissione Europea, fa il bilaterale con Barroso più lungo del previsto, dura un'ora e mezza, clima che viene definito da tutti disteso. Anche lo stesso Renzi ha detto, mi pare che lo abbia definito così in un tweet, Barroso. Sta di fatto che certamente l'Europa è sempre lì. Anche il Corriere titola pagina 5: Renzi a Bruxelles, tensione sull'austerity. Barroso dice: gli impegni sono da rispettare. La replica di Matteo Renzi è stata: sì, ma voi risolvete i problemi all'interno dell'Unione. Insomma, con Bruxelles, sapete, è sempre amore e odio, è sempre un rapporto così di reciproci sospetti e massima attenzione. Certo, c'è da dire che non aiuta se qualcuno a Bruxelles oggi legge i giornali italiani, alcuni retroscena che per la verità già da qualche giorno sono apparsi sui quotidiani e che oggi vengono confermati dai maggiori giornali, e cioè che colui che siamo andati a prendere a Washington dal Fondo Monetario Internazionale, colui che è definito mani di forbice, colui che deve tagliare la spesa pubblica, colui che deve dirci dove recuperare i miliardi per tagliare le tasse, eccetera, è Carlo Cottarelli. Raccontano i giornali oggi, il Corriere della Sera, ma anche il Messaggero e anche Repubblica, che è sempre più isolato. Isolato, ma come? L'abbiamo preso, doveva essere l'uomo, no? Ce ne sono stati altri commissari della Spending Review, è vero, è stato scelto dal precedente governo Letta, ma eccolo qui, la solitudine di Cottarelli senza incontri con il Premier. Pagina 5 del Corriere, Antonella Baccaro racconta nel suo nuovo ufficio al primo piano di Palazzo Chigi, a pochi passi da quello del Premier, il commissario alla revisione della spesa Cottarelli si insedierà mercoledì prossimo, ma ad attenderlo non troverà Matteo Renzi, che come tutti mercoledì sarà in visita a una scuola, in questo caso andrà a Scalea. ce ne sarebbe di che alimentare il filone della solitudine del commissario lasciato in prima linea a difendere un'operazione epocale che neanche il precedente governo si era immaginato di mettere in campo. Quella tabella coi 7 miliardi di risparmi per il 2014 ormai è tutta da rifare. Tutta da rifare, scrive il Corriere. E guardate, Repubblica è ancora più dura nell'articolo di Federico Fubini, che inizia in prima pagina: troppi 34 miliardi di tagli. Questa è la frase che Matteo Renzi avrebbe detto a Cottarelli. Qualche giorno fa, scrive Fubini, Cottarelli ha incontrato Renzi e gli ha presentato una proposta: imporre un prelievo, anche temporaneo, che riduca di fatto tutte le pensioni al di sopra dei 26.000 euro l'anno. Così riferiscono vari osservatori. Il commissario per la Spending Review non ha presentato al Premier la sua idea in maniera improvvisata. In Italia i trattamenti previdenziali sono circa 11 milioni e di questi circa 1 milione, dunque meno di 1 su 10, è sopra la soglia dei 26.000 euro lordi l'anno. Dunque un prelievo temporaneo a questi. Risposta di Renzi: Renzi ha detto no. Soprattutto guarda altrove, con l'appuntamento delle europee alle porte per quest'anno, Renzi sceglierà tagli di spesa che costano meno in termini di voti. 0,5 miliardo deve venire dai tagli alle retribuzioni dei dirigenti statali, quindi il governo si prepara ad aggredire i trasferimenti per infrastrutture all'ANAS, Ferrovie dello Stato, qualcosa dalla difesa, gli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Soprattutto Renzi ha detto 34 miliardi, la linea Cottarelli, sono troppi, non oltre i 20-25 miliardi. Allora, se uno dall'Europa che ci bacchetta e ci dice fate quello che dite di voler fare, poi legge che nel giro di 3 giorni il commissario della Spending Review sembra sbugiardato dallo stesso Premier, beh, non c'è che dire, forse una qualche idea sulla poca affidabilità dell'Italia se la fanno a Bruxelles. E anche ha ragione, mettiamo un attimo la bandiera italiana nel cassetto e diciamo le cose come stanno. Tra l'altro Renzi in questi giorni ha a che fare anche con un altro problema, questa inchiesta che è stata portata avanti da Libero e che ora è uscita un po' su tutti i giornali. C'è anche la procura che ha aperto un fascicolo senza indagati, senza ipotesi di reato, per il fatto che Renzi ha vissuto in qualche periodo, quando era sindaco, in un attico a Firenze intestato all'amico imprenditore Carrai. E scrive Libero, addirittura ha anche cambiato la residenza, è stato lì per un po' di tempo, e perché si è fatto pagare la casa. E ieri dallo staff di Matteo Renzi del Premier hanno detto la casa è di Carrai ed è stato ospite solo qualche volta, il leader PD e la casa di Carrai ero suo ospite di tanto in tanto. Questo a pagina 13 del Corriere della Sera. Libero ovviamente apre in prima pagina su questo, scrivendo anche: ora finalmente, visto che c'è un'indagine della procura, la notizia diventa una notizia per tutti. Noi da giorni puntavamo proprio su questo, la casa gratis di Renzi finisce in procura, l'attico pagato dall'amico nel mirino dei PM. Tra l'altro, questa è anche l'apertura del Fatto Quotidiano, il Secolo XIX dedica a pagina 6 anche una pagina intera su questo caso, raccontando chi sono i protagonisti. Ovviamente Matteo Renzi, ma soprattutto Marco Carrai, appunto amico imprenditore, uno dei migliori amici di Renzi, ex fondatore di circoli forzisti negli anni 90, tra l'altro scrive il Secolo XIX con questa frase che riaprirà qualche polemica. Marco Carrai, ex fondatore di circoli forzisti, dunque di Forza Italia, poi diventato della Margherita, consigliere comunale all'epoca del sindaco Domenici, rampollo di una solida stirpe di imprenditori di greve in Chianti, ottimi agganci in tutta l'area cattolica, contando in famiglia su un ex presidente della Compagnia delle Opere Toscane, un vertice del Banco Alimentare, ottimi rapporti anche con l'Opus Dei, ottimi rapporti negli Stati Uniti grazie ai buoni uffici di Paolo Fresco, ex presidente Fiat. Pare che sia stato lui anche a combinare gli incontri con Tony Blair e Angela Merkel da parte di Renzi, soprattutto con Davide Serra, il patron del fondo di investimenti Algebris di Casa Le Cayman, in cui poi l'ente Cassa di Risparmio di Firenze ha investito 10 milioni di euro di Coco Bond, strumenti definiti dalla stessa borsa italiana a rischio. Ecco, Carrai è uno dei due protagonisti. protagonisti di questa vicenda, come racconta appunto il secolo XIX nell'articolo di Sonia Oranges a pagina 6. L'altro protagonista è Alessandro Maiorano. Alessandro Maiorano è un ex dipendente del comune di Firenze, da anni impegnato in una personale battaglia anti-renziana. Già nel 2012 aveva presentato un esposto in cui chiedeva di verificare i soldi della fondazione Big Bang, se fossero stati investiti anche soldi di Luigi Lusi, il tesoriere della Margherita poi finito in disgrazia. Insomma, varie volte ha denunciato anche Renzi. Da lui è partita la vicenda che ha portato poi alla contestazione e alla condanna in primo grado per danno erariale di 2 milioni di euro per Matteo Renzi quando era presidente della provincia di Firenze. Insomma, una persona che certamente ce l'ha abbastanza con il premier. Tra l'altro questa casa dov'era? Lo voglio chiedere a Mauro Meazza. Sai dov'era la casa? La casa? No, non ne ho idea. L'indirizzo, in via degli Alfani. Ah, sì, perché infatti ho visto qualcuno ironizzava che si passa da degli Alfani ad Alfano. Esatto. Sì, Massimo Gramellini dice ne basta uno solo di Alfano. Non, vabbè, comunque. Ma, in realtà si poteva ovviare a tutto questo andando a vivere in condominio, e però studiando il codice del condominio. Aia. Come sai, è in edicola insieme al Sole 24 Ore. Vabbè, no, subito tu tusce, subito. Uno scherzo, ma per ricordarti che devi studiare. Ricordati sempre che devi studiare. Ti do alcune buone notizie. Ricordati che devi morire, però insomma. No, per carità, adesso insomma, no. Basta studiare. Ecco. Sì, prima di, magari studiamo. No, volevo darti alcune notizie, diciamo, buone e altre meno. Quale vuoi per prime? Ma dai, scegli tu, una e una. Né buona né cattiva, vedremo come funziona il decreto lavoro, finalmente c'è, abbiamo due pagine oggi sul Sole 24 Ore che spiegano come cambiano allora le norme sul lavoro, sono proprio nelle primissime pagine del Sole 24 Ore. Poi una buona notizia potrebbe essere che i cinesi si sono stufati dei falsi. E adesso so che sembra un po' paradossale, però lo spiega appunto sul Sole 24 Ore Rita Fatiguso, che ci dice: guardate, effettivamente questi falsi occidentali che vengono venduti in Cina, queste patacche che cercano di rifilare i consumatori cinesi, stanno riscontrando proprio un'insoddisfazione dei consumatori. Quindi è il momento del Made in Italy vero, ad esempio, che potrebbe essere una buona notizia. Un'altra buona notizia: c'è il decreto sui finanziamenti alle startup innovative. Qui siamo un po' nell'ambito radiofisco, Alessandro, però ti assicuro che era atteso e lo spieghiamo, lo rispieghiamo anche bene in norme e tributi. Hai parcheggiato sulle strisce blu? No, infatti è tutto a posto, come ho detto, posso stare tranquillo. Allora, leggi sempre Maurizio Caprino, tu nel dubbio leggi Maurizio Caprino su norme e tributi, però voglio dirti, guarda, il governo ha chiarito, no, la multa non è dovuta, però devi pagare la differenza, certo, cioè, con un grattino, bene, come si dice a Milano. No, infatti, io l'ho detto prima, se no la gente, me lo immagino già, arriva lì, la piazza oggi alle 10 del mattino, la prende oggi alle 21, dice tanto chi sa. No, diciamo che ti possono chiedere la differenza, ecco, allora, quindi sei parcheggiato sulle strisce blu, grattando con i due urini che ti tieni sempre in tasca. Perché sì, tutti facciamo così, ecco, però sappi che ti possono poi chiedere la differenza, non puoi lasciarla lì con un grattino da un'ora per 8-9 ore. Mi raccomando, non facciamo cattive figure, come invece potrebbe fare il governo sull'Expo. Vorrei segnalarti che lo scriviamo oggi nel dorso, nelle pagine di Imprese e Territori, qui si aspettano 260 milioni, non saranno tutte ste cifre, ma insomma oggi c'è un vertice di emergenza, spiega Sara Monaci. Vediamo come funziona. Perfetto. È il mio momento? È il momento. Allora, traffico per tutti e buon fine settimana. Certo. Alessandro Inter, l'agnelli dell'informazione. Tutto Inter e Agnelli. Devo fare una battaglia personale con un ascoltatore che mi scrive da mesi sulla pronuncia di summit, alla latina. Siamo italiani, summit lo pronuncia a casa sua, mass media lo pronuncia a casa sua, mass media, latino, summit, latino, va bene? Dovevo fare questa cosa che mi tenevo dentro da un po' di tempo. Allora, intanto, cari ascoltatori, anche oggi la stampa, ieri lo diceva già il Messaggero e la stampa conferma, è pronto il rincaro per treni e autobus. L'Italia spende più del doppio degli altri paesi europei. Per risparmiare 5 miliardi bisognerà ritoccare le tariffe. Marco Sodano racconta tutti i dettagli a pagina 4 della Stampa e questa non è certamente una buona notizia. Come non se la passa bene politicamente parlando Silvio Berlusconi, è tornato in realtà protagonista, sempre per vicissitudini, le vicende, la Cassazione, il cavalierato, il cavaliere che è stato cancellato. Ma attenzione, tra l'altro su questo c'è un giallo, non è vero, Libero scrive, il cavaliere ancora cavaliere, udite, ci sono almeno questi titoli di cui si può fregiare Berlusconi, cavaliere di prima classe dell'ordine della Stara Planina della Bulgaria, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Reale Norvegese al Merito, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Stella di Romania, cavaliere dell'Ordine Piano, benemerenza ricevuta in Vaticano, e altresì membro della prima classe dell'Ordine del Re Saudita Abdalaziz, ed è pure compagno d'onore dell'Ordine Nazionale al Merito di Malta. Insomma, quindi è ancora cavaliere Berlusconi, nonostante non sia cavaliere del lavoro. Su Berlusconi la tematica è chi si candida all'interno della famiglia, pare questa la domanda. Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere di no. Allora forse è Marina Berlusconi, no. Allora forse è Barbara Berlusconi, ma su Barbara Berlusconi si storce il naso. Oggi si storce il naso all'interno del partito, fa sapere per esempio il Corriere della Sera. Oggi c'è un'intervista a Raffaella Pascale, Francesca Pascale, intervistata da Concita Sannino su Repubblica, a pagina 10, dice: Marina faccia il gran sacrificio, si deve candidare. Spero davvero che Marina raccolga questa sfida. E poi si entra un po' a parlare del suo rapporto con Berlusconi. Dicono che comanda lei, ora sciocchezze, il presidente ascolta tutti, poi decide sempre soltanto lui. Ma lei ha licenziato per esempio il compratore di fagiolini a 80 euro al chilo. Farà sorridere, ma è un piccolo emblematico esempio di coloro che abusano della fiducia di Berlusconi. E quanti compratori di fagiolini intorno a lui, in politica, nei seggi. Poi sul governo dice: non mi piace, dice Francesca Pascale, il modo in cui è nato questo governo. Si regge su due traditori: uno è Renzi, che assicurava di voler arrivare a Palazzo Chigi per la via maestra del voto, l'altro è Alfano, autentico volta gabbana. Alla conclusione il tormentone: vi sposate o no? A Napoli mi ha regalato anche le scarpe da sposa, incredibile, però il matrimonio da sogno vero è in chiesa e io non posso più averlo. A questo punto diciamo che se lui ci dovesse cascare per la terza volta, quel giorno mi farò trovare libera. Francesca Pascale fa anche sapere: ho denunciato per stalking Michel Bonev, che è colei che anche a servizio pubblico aveva detto Francesca Pascale in realtà è lei. Abbiamo avuto una relazione, l'ho denunciata per stalking, e vabbè. Oggi invece Beppe Grillo va in TV, viene intervistato da Enrico Mentana da Bersaglio Mobile, fa sapere il Fatto Quotidiano, lo fa sapere anche il Giornale, che dice però Grillo ha dettato tutte le regole, niente intervista in diretta, solo registrata, niente contraddittorio allargato, solo Grillo e Mentana. Quindi una lunga intervista, o meglio, scrive il Giornale, sarà il solito monologo interrotto qua e là. In ogni caso questo succede. Notizia di cronaca che mi ha colpito certamente è questa. Libero, Filippo Manvuller, pagina 19. La RAI sbaglia i numeri milionari, la vincitrice di un istante fa causa. Una signora che era davanti alla TV, tale Caterina Gentile di Salvaterra, provincia di Reggio Emilia, un giorno accende la TV, vede la cinquina, cos'è la sestina, insomma i numeri, non lo so, che cavolo ne so, comunque vede che la RAI scrive i numeri e pensa di aver vinto 34 milioni di euro. Peccato che avevano sbagliato a scrivere i numeri in RAI. E quindi è rimasta, e poi hanno detto: ci scusate, c'è un errore su un numero, hanno cambiato. No! A quel punto svaniscono i 40 milioni di euro. E allora ha fatto causa la RAI. Ha fatto causa perché pensare di aver vinto è 34 milioni. mi è venuto un infarto, credevo di avere 34 milioni. Ha chiesto risarcimento danni, le hanno offerti 18.000, lei ne chiede 50.000. Insomma, è una vicenda di quelle proprio all'italiana. Comunque sul Libero, pagina 19. Vabbè, vabbè, che dobbiamo dire? Dobbiamo andare all'articolo finale? Il premio per l'articolo più inutile, scovato sui giornali oggi. Ragazzi, il Quotidiano Nazionale sta facendo questa iniziativa spassosissima, spettacolare, regalare il libro. Il primo sarà in edicola al costo di 8,90 euro, credo, da domani, su Renzi e la storia di Renzi, nascita e successo di un leader bambino. C'è in copertina questa foto di Matteo Renzi, la prima comunione a 7 anni, praticamente è come adesso, ma con la faccia, è con la faccia di adesso, ma un corpo di 7 anni, è lui, è Matteo Renzi. Ma questo articolo che sfiora la geografia, Ilaria Ulivelli, Matteo, parrocchia e pallone, capitano anche in campo, il libro in vendita da domani, i ricordi di chi diceva era un bravo mediano, i ricordi di chi dice lui pensava solo al pallone, niente fidanzatine, ma no, invece c'era una fidanzatina prima di Agnese, l'attuale moglie, a 12 anni è attuale presidente del consiglio comunale di Rignano, Federica Morandi, che dice no, ma era una cosa da bambini, ma dai, ma basta, ma fermiamoci qui. La geografia del bambino Matteo Renzi, no, no, la carta costa, dai. 24 mattino. Sono le 8:18, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, c'è un referendum di cui in Italia sui grandi giornali si è parlato pochissimo, quasi per niente. Parliamoci chiaro, è un referendum che non ha un valore legale, ufficiale, è un referendum che è stato organizzato da un'associazione che si chiama plebiscito.eu, questo è il loro sito. Referendum in Veneto per il quale possono votare i veneti per una domanda molto molto semplice: vuoi che il Veneto diventi una repubblica federale indipendente e sovrana? Oggi scade il giorno, si può votare credo entro le 18, e voglio salutare Gianluca Busato, che è il presidente del comitato referendario plebiscito.eu. Busato, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. So che lei dice nelle varie interviste non ho più un secondo, mi chiamano tutti, ieri c'era la BBC, c'erano altre TV straniere. In Italia però, insomma, questa vicenda viene più definita come una cosa tipo di appendice di Carnevale di Venezia. Sì, perché si pensa che i veneti continuino a pagare e a tacere come hanno sempre fatto, mentre il mondo ha capito che Venezia si sta rialzando in piedi per entrare nel novero degli stati indipendenti. Gli stati indipendenti. Allora, intanto diamo dei numeri. È vero, si vota entro oggi alle 18. Oggi alle 18? Sì. Come si vota? Si vota attraverso il sito internet www.plebiscito.eu. Oppure telefonando al numero 0423 40 20 16, oppure andando direttamente alle centinaia di seggi predisposti nel territorio, i municipi, possono votare solo i veneti, immagino, no? Veneti residenti e poi anche i veneti residenti all'estero iscritti all'AIRE. Quanti hanno votato fino a ieri? Si sono registrati 1.870.000 voti e passa, abbiamo quindi raggiunto idealmente la maggioranza assoluta, abbiamo superato il 50% dei votanti e adesso, insomma, vediamo in queste ultime ore, credo che questa affluenza sarà ancora più corposa. Può arrivare addirittura a 2 milioni, però Busato, qui c'è da chiarire una cosa, cioè questo referendum non ha appunto un valore legale, è un'iniziativa privata che mettiamo alle 18, poi si aprono i seggi e voi direte hanno vinto i sì, mettiamo che vincono i sì, che succede? No, in realtà devo dire che non pare non avere valore legale nel senso, se noi lo consideriamo sotto la lente del diritto interno dello Stato italiano, considerato però il fatto che il percorso di indipendenza del Veneto, e non potrebbe essere altrimenti, si inserisce e si attua nel solco della legalità e della legittimità internazionale, è chiaro che cambia il punto di vista, perché noi non ci rivolgiamo alle istituzioni dello Stato italiano, ma noi siamo, nel momento in cui diventiamo indipendenti, lo siamo per una scelta nostra. Ho capito, ma scusi, ma indipendenti, cioè voi potete dire noi diventiamo indipendenti, ma è una frase vuota. Io posso dire, posso creare il comune indipendente di Milano dall'Italia, ma una volta che l'ho detto, gli effetti pratici... No, no. Ma gli effetti pratici è molto semplice, è come in un matrimonio, quando ci sono due sposi, magari un matrimonio in cui uno dei due coniugi ha voluto sposarsi per interesse economico, non è poi una cosa così rara, quando la cosa finisce, magari il coniuge che si è sposato per interessi economici può anche dire no, voglio restiamo assieme, ma insomma il matrimonio finisce, magari poi in una fase transitoria in cui c'è una trattativa patrimoniale, ma insomma... Sì, ma mi faccia capire, nel senso, voglio dire, non è che io devo prendere il passaporto da domani se voglio venire in Veneto. No, l'unica cosa è che cambierà che riceverà un messaggino sul suo telefonino, che la vita che... che delle tariffe insomma che operano in Veneto per telefonare. Cioè riceverò un messaggio sul telefono e chi me lo manda? Benvenuto in Vodafone Veneto, Team Veneto, quello che sarà insomma. Ma ho capito, ma mi scusi, ma da Roma cioè, per esempio le tasse, ecco, una delle questioni per le quali immagino voi cosa farete, so che leggevo oggi su Libero che se vincono in sì questa sera sarà proclamata la sovranità della Repubblica Veneta, e poi? Beh, è chiaro che a quel punto il primo aspetto dopo la dichiarazione di indipendenza del Veneto sarà il controllo delle risorse fiscali. Sarà quindi, cioè, andate da Zaia a dire: Zaia, adesso non bisogna più buttare le tasse a Roma, non bisogna... non andiamo da nessuno, si insedierà una delegazione di 10 veneti, quelli che riceveranno più voti in questi giorni. Cioè, ci sono dei candidati, 10 delegati per l'indipendenza, e saranno loro a stabilire e a proclamare un'esenzione fiscale totale nel periodo transitorio fino a che non ci saranno le strutture. Ma ho capito, ma è un reato, cioè se uno lo facesse davvero è un reato. È un reato non per voi, ma per Roma, per le leggi dello Stato che varranno anche da domani in Veneto. Ma dura poco, guardi, non so se si ricorda. Ma questo è il suo auspicio. Però fino a prova contraria, domani l'Agenzia delle Entrate le può chiedere di pagare le tasse e le deve pagare, se no è un reato. Possono cercare di farlo, però il fatto è che di fatto nel momento in cui c'è la legittimità popolare, c'è la sovranità popolare, diventa legittimo non pagare più le tasse al governo italiano, e al contrario diventa illegittimo per il governo italiano cercare di pretendere in un territorio che si è dichiarato indipendente. Lei dice legittimo, ma per lei, ma per la legge... Però a livello internazionale. Ma, guardi, allora facciamo così, lei da domani non paghi le tasse. No, ma è chiaro, ma se lei da domani non paga le tasse, mi informi se nel giro di 3 giorni un pubblico ministero, la Guardia di Finanza, non le viene a bussare alla porta. Ma guardi, le dico già che già non pagano più le tasse gli imprenditori veneti, ormai è diventata una tendenza acclarata, non le pagano sotto altre forme, per cui a quel punto diventa solo una formalizzazione di qualcosa che sta già avvenendo. È chiaro che saranno molti imprenditori che ci ascoltano e le pagano tranquillamente, magari qualcuno non ce la fa, ecco, questa è un'altra questione. Le pagano, ma si utilizza il ravvedimento, si utilizzano tutta una serie di tecniche legali che fanno sì che in qualche modo già oggi ci sia una situazione simile a quella che ci sarà poi nei prossimi giorni da un punto di vista legale. Però vedi, sono proprio gli imprenditori che ci stanno chiedendo di operare per far sì che finisca l'inferno fiscale peggiore del mondo. No, ma guardi che, Busato, allora, se uno vuol portare avanti politicamente, non so, la questione dell'indipendenza del Veneto, di qualsiasi regione, voglio dire, lo può fare legittimamente, fonda un partito, ma pensare che in nome di questi, che ne so, 1.800.000, 2 milioni di voti, da domani ci sia la Repubblica Veneta indipendente, cioè, uno può dirlo, ma così è un gioco, no? No, non è un gioco, ci sarà l'insediamento di un organo, di una delegazione di 10 cittadini, di 10 delegati per l'indipendenza del Veneto, che opererà, e questo organo opererà anche in un periodo transitorio, ovviamente, rivolgendosi e costruendo relazioni internazionali per ottenere il riconoscimento della, dello Stato autoproclamatosi indipendente. Sì. Ma guarda che questo è un processo, voglio dire, può sembrare così strano. Beh, un po' strano appare. È una tendenza internazionale. Nel dopoguerra, pensi, c'erano 70 stati indipendenti, oggi sono 200. Per cui è la normalità. No, ma guardi, sì, ma cambiano gli stati, però qualcuno ha fatto il paragone, per esempio, con la Crimea. Mi sembra un paragone totalmente azzardato. Lì c'è stato azzardato, perché qui non ci sono carri armati, qui ci sono solo. Ma no, perché lì c'è un presidente Putin che ha firmato che la Crimea è russa, cioè è stato fatto un referendum, poi si vedrà se vale, non vale, ci sono i trattati internazionali, ci sono le comunità che si stanno muovendo, ma voglio dire, non è che io mi sveglio domani e decido di separare Milano, faccio su una piattaforma online un referendum e quindi dico Milano separare. Le diamo una consulenza. Va bene, ho capito, ma poi finito questo rimane quello che è, c'è una consultazione così online, si sono espresse delle persone, va bene, ne prendiamo atto. No, questo è un referendum che è stato indetto in ottemperanza alla risoluzione 44 della Regione Veneto approvata il 28 novembre 2012, pertanto è un referendum indetto direttamente da una miriade di comuni, perché questo non solo è stato indetto da plebiscito.eu, ci si dimentica, ci sono molti comuni che lo hanno indetto e quindi loro nel loro territorio, tanto per dire, sicuramente saranno indipendenti, perché sono delle istituzioni, degli organi dello Stato che autonomamente si sono mosse per fare questa consultazione. Mi dica, Busato, in conclusione, cos'è la cosa che le fa più schifo dell'Italia, cioè di Roma? No, ma io non agisco contro, io agisco per. Io so che il Veneto è una potenza economica. Qual è la cosa che l'ha spinto? Qual è la cosa che l'ha spinto, che vi ha spinto a fare questa cosa? Ecco, forse che fa schifo era un po' brutale. Ormai diciamo che non è più una questione di libertà economica. La situazione attuale va a toccare la sfera della dignità. Qui non c'è più dignità nella situazione di dominio, che è diventato un dominio dispotico da parte dello Stato italiano. E quindi è chiaro che i veneti, gran lavoratori, leali, con un grande senso dello Stato, ad un certo punto non sono più stati tosati, ma sono stati scorticati. Anche quando lei scortica una pecora, questa dà fuori il sangue, non dà più lana. Non dà più lana, è una questione di sopravvivenza. La questione fiscale, soprattutto. La questione di sopravvivenza. Di sopravvivenza. E l'ultima questione, poi vedremo. Lei sa, vero, che nei primi mesi dell'anno non ci sono numeri sufficienti per contare le vittime per ragioni economiche, i suicidi. No, certo, questo lo dice, guardi, una radio che ha dedicato speciali e te si è approfondito moltissimo, ha fatto una campagna per contrastare queste cose. Se lo Stato italiano e la classe politica si dimostra e continua ad essere responsabile, è ovvio e naturale che la società civile si organizzi e si assuma le proprie responsabilità. Mi dica perché, mi dica perché i giornali italiani non hanno letteralmente preso in considerazione questa iniziativa. Ma io credo perché veramente loro pensavano che i veneti continuassero a pagare tacere, mentre probabilmente un po' di snobismo, un po' di disinformazione, un po' di, se vogliamo, di scarsa considerazione di un qualcosa che avveniva nella periferia dell'impero. Peccato che questa periferia dell'impero sia quella che mantiene in piedi questa baracca. L'ultima cosa, so che lei va per sua stessa missione spesso in vacanza, è un posto fantastico tra l'altro in provincia di Trapani, a San Vito Lo Capo. Ha già preso il passaporto per andare la prossima volta a San Vito Lo Capo? Però in realtà io l'ho detto che sono andato una volta, i giornali hanno detto va sempre. Mi piace molto andare anche a San Vito, Italia, che considero dal punto di vista turistico un paese straordinario. Ma certo, turistico. La ringrazio intanto, Gianluca. Grazie, Busato. Entro le 18 i risultati finali. Oggi è l'ultimo giorno per votare questo referendum. Se ci credete, plebiscito.eu, www.plebiscito.eu. Mentre noi, dopo la pubblicità, parleremo di che cosa? Sapete che la Camera spende 32 milioni di euro l'anno per affittare degli uffici perché tutti i parlamentari non ci stanno a Montecitorio, è abbastanza stretto Montecitorio? Si diceva questa cosa sa da finire e sembrava finita e invece forse non è finita. Ma com'è sta roba? 24 mattino. eccoci qua, le 8:35 minuti. Allora, cari ascoltatori, da anni, per la verità, questa vicenda era venuta fuori come una delle cose che avevano più indignato i cittadini che seguono tutte le vicende riguardanti la cosiddetta casta, insomma, la politica. La Camera spende 32,5 milioni di euro l'anno per affittare 400 deputati fuori dal Parlamento, perché non ci stanno tutti, sono molti e gli ambienti di Montecitorio sono stretti. Affitti che vengono corrisposti a Milano 90, società dell'imprenditore Sergio Scarpellini, e così è stato per anni, finché qualche mese fa, per iniziativa voluta da un deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Fraccaro, che saluto, buongiorno onorevole Fraccaro, eccoci qua. Buongiorno a lei. Per un'iniziativa sua recepita poi dalla Camera, la Camera si era dotata di una norma, questa cosa doveva finire. Ora non si capisce, pare che non riesca a finire nel frattempo. La vicenda è un po' controversa. Insieme all'onorevole Fraccaro voglio salutare il deputato del PD Paolo Fontanelli, che è anche uno dei tre questori della Camera. Buongiorno. Buongiorno onorevole Fontanelli. Buongiorno, ecco. Buongiorno a lei, sì, spettatori, quindi, e anche a Riccardo. E quindi lei conosce e tiene i conti, perché i questori sono quelli che tengono i conti della Camera. Allora ci faccia capire, perché ieri Repubblica titolava così: la Camera non rinuncia più agli affitti d'oro. È così, caro Fontanelli? No, il titolo era un'evidente forzatura. Se uno legge anche l'articolo, che sostanzialmente era corretto, se ne può ricavare. E dalle dichiarazioni sia mie sia del collega Fontana, non che c'è una decisione di rinuncia, che c'è un approfondimento per poter portare, diciamo, le opzioni possibili all'attenzione dell'ufficio di presidenza della Camera. Approfondimenti, diciamo. Che vuol dire? Cioè, nel senso... La norma attuale che è in vigore è una norma che presenta molti problemi, tanto che avevamo cercato nel decreto Salva Roma, che poi non è andato avanti, sì, è stato fermato, di correggerla, perché per avere, diciamo, perché si espone a un contenzioso serio. Beh. E tra l'altro nella norma in vigore c'è anche un elemento da capire, da approfondire, che esclude dalla possibilità di attuare un recesso, diciamo, sì, unilaterale, diciamo, dal, sì, le società che fanno parte di una serie di fondi immobiliari. Cioè c'era il rischio che, applicata quella norma, che la Camera peraltro aveva recepito, poi sì, Scarpellini, sì, in questo caso la Cortoma, potesse fare ricorso se venisse sì, applicato. Sicuramente lui, come anche, diciamo, le associazioni, così, delle associazioni sindacali dei proprietari, hanno già preannunciato per esempio un ricorso costituzionale. Insomma, è una partita complicata. È chiaro che noi dobbiamo muoverci su un terreno che non ci esponga, perché altrimenti, sì, pagheremo, no, rischio due volte. Cioè, quindi l'idea della Camera è: vanno tolti questi affitti, ma dobbiamo capire come. Se applicavamo pedissequamente quello che la Camera aveva recepito dalla norma scaturita dall'iniziativa di Fraccaro, ci esponevamo a possibili ricorsi. Sì, da ma parte... non direi al passato. In realtà quella norma prevede che il tempo sia per poter fare questo recesso è tutto il 2014, cioè fino a dicembre 2014. Con un preavviso di 30 giorni, quindi abbiamo ancora tempo per valutare le possibilità e tutte le opzioni possibili. Non so, volevo solo, sì, ribadire che su questa vicenda, anche per, diciamo, completezza di informazione, prima i Palazzi Marini erano 4, nella passata legislatura, anche su un'iniziativa e su una battaglia della radicale Bertrandini, sì, non si rinnovò il primo dei palazzi in scadenza di contratto, quindi Marini 1 è stato cessato. Gli altri 3 palazzi, dove sono collocati questi 400 uffici, sono in scadenza fra il 2016 e il 2018. Noi abbiamo già deciso di non rinnovarli comunque, chiaro, più. Chiaro, è chiaro che se c'è una norma che ci permette Di anticipare, allora, onorevole Fraccaro, vorrei capire se lei è più allarmato, è tranquillizzato dalle parole del questore Fontanelli, oppure dice no, stanno cercando di salvare quello che era stato tolto. Che ne pensa? Intanto saluto anch'io il questore Fontanelli, che ha molto lavoro da fare, visto che da 3 sono passati a 2 in questo periodo di questori all'attivo. No, niente, sugli affitti d'oro credo che la possibilità di recedere in brevissimo tempo ci sia, di fatto. Alla Camera abbiamo un'avvocatura che ci può dare consigli preziosi dal punto di vista giuridico, e già in passato l'avvocatura aveva dato parere positivo a questo emendamento che era passato. E credo anche che l'accertamento di cui parla il questore si possa fare, io l'ho già chiesto al Demanio, al Ministero al MES, Ministero Economia e Finanze, e sembra che appunto che Milano 90 non abbia nulla a che fare con questi fondi, quindi la possibilità di recesso immediato c'è. Credo anche, siccome ci sono poi dei problemi organizzativi che i questori devono affrontare, ci sia l'esigenza di recedere immediatamente proprio per avere tempo entro la fine dell'anno di riorganizzare gli spazi e poter attuare una riforma di tutta l'organizzazione del palazzo Montecitorio in modo da poter risparmiare 32 milioni di euro. Ma lei sta dicendo, ma la questione poi dei tre questori, due, cosa si riferisce? Ad Ambruoso, il questore col quale non è che avete molti buoni rapporti, si riferiva no, a quello? Perché, perché è sospeso dalla Camera, ecco. No, era per chiarire questo. Ma lei sta dicendo che vede delle resistenze ad applicare qualcosa che in realtà secondo lei si potrebbe applicare da subito? Sì, ma non tanto da parte dei questori che sono in malafede, assolutamente non credo questo. L'unica cosa che temo è che ci sia una sorta di scaricabarile e che venga delegata la decisione non all'ufficio di presidenza, presieduto dalla presidente Boldrini, che è l'organo deputato a questo, ma all'Aula, in modo da scaricare la responsabilità della decisione di recedere o meno dai palazzi al 630 deputati, e quindi la responsabilità è di tutti e di nessuno alla fine, poi si vota contro. Io pretendo, perché questo è l'organo che deve decidere, che la decisione venga portata dalla presidente Boldrini in giro di pochissimo tempo, dietro istruttore dei questori in ufficio di presidenza, e nel giro di una settimana o due si decide se recedere o no. Poi abbiamo tutto il 2014 per riorganizzare gli spazi e gestire la situazione. Sì, perché una cosa che questore Fontanelli, una cosa che il suo collega, l'altro questore Fontana di Forza Italia, ha detto e che effettivamente ha fatto un po' specie, forse è: ma come facciamo a lasciare senza ufficio 400 deputati relativi collaboratori? Ora nessuno li vuole lasciare senza ufficio, però verrebbe anche da dire: vabbè, ma se il problema è questo, poi in Italia non si riescono a fare mai le cose, trovate un altro modo, non da spendere 32 milioni di euro all'anno, da subito, o no, questore? Sì, no, il problema non è così semplice. Va detto intanto che nei 32 milioni non è solo la parte di affitto dei palazzi, c'è anche tutta la parte dei servizi che riguarda personale, che è di Scarpellini, e noi dobbiamo garantire, quando diamo gli uffici ai parlamentari in quel modo lì, che ci sia un servizio sui piani, ci sia una vigilanza, ci sia tutta una serie, e sono circa 221 le persone che lavorano su quei palazzi. Ora Scarpellini dice che sono 350 perché gonfia, perché sta cercando ovviamente di crearci problemi con i dipendenti, perché e lui dice: io li licenzierò tutti, sono 350, in realtà sono 221, ma sono sempre 221 famiglie. Sì. Comunque. Beh, ma se si trova un altro posto, ci sarà sempre bisogno di. Centro è difficile, io credo che davvero la discussione che dovremmo fare, che io ripeto, voglio dire, va fatta comunque, perché anche se quei palazzi sono comunque a scadenza, e l'ipotesi di trovare altri edifici per dare un ufficio ad ogni parlamentare in centro, cioè vicini alla Camera, perlomeno per quello che abbiamo cercato di capire noi, è un'ipotesi molto complicata e difficile da trovare. Ma mi scusi, ma anche quella cifra lì, 32 milioni di euro, ma io forse compra un palazzo, cioè 32 milioni di euro l'anno, che chissà per quanti anni gli abbiamo dato. No, io penso che con quelle cifre, se a suo tempo avessero fatto un mutuo, probabilmente quei palazzi oggi sarebbero di più. La Camera aveva già un altro ufficio, metteva 400 deputati che non stanno a Montecitorio. Questa ha ragione. Ora però, io credo che si possa e sia necessario ragionare anche sul modello, perché non credo che sia più obbligatorio pensare a un modello in cui noi dobbiamo dare un ufficio ad ogni deputato. Peraltro. Bisogna aprire una discussione, credo che oggi le cose siano un po' cambiate, ci sono altri strumenti informatici, altre condizioni, si può ragionare di questo e si deve comunque ragionare di questo anche in vista della cessazione dei contratti che sono tra due anni, no? Quindi non... questo tema c'è e noi pensiamo che se ne debba già discutere adesso. No, ma è chiaro. Noi però... intendiamo portare il bilancio di previsione in discussione nell'ufficio presidenza entro la metà di aprile e di andare entro giugno in aula. Si fermi un attimo, questo però. Tema e quindi anche quello della possibile recessione delle opzioni debba essere fatto. Debba andare in parallelo. Sì, allora facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi ripartiamo dall'onorevole Fraccaro, anche perché mi pare di aver capito che Scarpellini, che è appunto questo proprietario di Milano 90 e dunque colui che affitta e ha affittato per anni a Camera, abbia cercato anzi di rinnovare i contratti per altri 18 anni, ma a questo gli è stato risposto di no, scadranno appunto al massimo nel 2018. Ma ripartiamo tra un attimo. Eccoci rientrati in diretta con Paolo Fontanelli del PD, questore della Camera, e Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle. C'è da dire, Fraccaro, che i cittadini che mi scrivono via SMS, vabbè, c'è chi dice con 32 milioni si mettono a posto le caserme dismesse, si mettono lì. Questa delle caserme ricorre, comprate una caserma, c'è chi dice licenziamo i 400 deputati, vabbè, basta eliminare i parlamentari e risolto il problema. Non si possono non possono tutti stare un po' più stretti, oppure molti dicono gli uffici no, le spese no, i pensionati, gli esodati sì. Insomma, la sensazione è che ci sia sempre questa doppia misura. Fraccaro. Allora, io volevo ricordare una cosa, perché sennò non abbiamo il senso della gravità di quello che sta succedendo, di quello che rappresentano i palazzi marini. I palazzi marini sono stati sottoscritti, questi affitti, nel 97, da un certo presidente della Camera che si chiama Violante, che anche recentemente in questa legislatura è stato chiamato prima da Napolitano e da Letta come padre costituente, come consulente dello Stato per fare le riforme costituzionali, una persona che ha firmato dei contratti di affitto senza clausola di recesso per 18 anni e che ci dobbiamo pagare noi per 32 milioni di euro fino al 2018, ed è un uomo del PD. E sono stati sottoscritti con una persona che non era proprietaria degli immobili. Quella persona, un certo Scarpellini, è andato in banca e ha detto: io ho un contratto blindato con la Camera, fatemi un mutuo, tanto lo pagano i cittadini italiani. Sì, sì. E lui ci ha guadagnato l'ira di Dio, ovviamente. E vabbè, allora, quando si fa un contratto uno ci guadagna. E perché si fanno queste cose qui? Generalmente si fanno per motivi clientelari. Io ti faccio un favore a te, imprenditore, ti do dei soldi dei cittadini italiani, tu me li restituisci pagandomi le campagne elettorali. Però questa è un'accusa grave, Fraccaro. No, perché non l'ho detto io, l'ha detto Scarpellini, io non lo sapevo, l'ha detto Scarpellini, l'ha detto in un'intervista. Sono andato a verificare anche quest'anno, alle ultime politiche, ha pagato la campagna elettorale di alcuni esponenti del PD. Allora, io sto dicendo al questore, cioè, secondo lei è per quella grave, non è una questione di organizzazione, per lei è quella morale ed etica, è quella gratitudine che doveva dare. Cioè, per lei è quella gratitudine legata al fatto che una Camera a presidenza Partito Democratico, poi non è che Violante immagino abbia deciso da solo, no, Fraccaro? Cioè lui, li ha firmati lui? Beh sì, li ha firmati come presidente della Camera, ma c'è un ufficio di presidenza, non è che si sarà riunito lui e Scarpellini. No, ma quello che voglio dire è che è una persona che doveva dettare un po' la linea insieme ad altri costituzionalisti delle riforme della Costituzione, ed è una persona che è in grado di firmare un contratto d'affitto senza clausole di recesso, cioè non riesce a fare un contratto decente su un contratto d'affitto e deve scrivere la carta. Ma è chiaro che abbiamo sul groppone questa vicenda che almeno fino al 2018, se va male, nel senso che poi basta, però ce li abbiamo sul groppone questi 32 milioni di euro l'anno, questo è vero. Fatemi sentire due ascoltatori. Tiziana da Milano ci chiama. Tiziana, buongiorno. Buongiorno. volevo dirle semplicemente una cosa, sì. Cioè che trovo incredibile che quando si tratta di dover modificare i cosiddetti malaugurati diritti acquisiti che riguardano milioni di persone, i provvedimenti si prendono in 3 giorni, non ci sono impedimenti legali, si fanno le cose e tutti tacciono e devono sopportare. Quando ci sono in ballo questioni di questo genere, improvvisamente sembra che la questione sia di lana caprina, tutti devono tutelarsi, guardare, perché altrimenti succedono catastrofi e cose di questo genere. Ma perché purtroppo, purtroppo il sistema è che se poi c'è un ricorso e questo ricorso dovesse essere vinto, per cui dobbiamo pagare ancora più soldi, capisce che tutelarsi è meglio. Però concluda, Tiziana. Ecco, vorrei sapere come mai però non si teme mai che gli altri milioni di cittadini possano fare i ricorsi, cioè i milioni di cittadini devono subire, poi ci sono quelli che sono figli di un Dio maggiore che invece possono minacciare il ricorso, allora tutti se la fanno addosso. Però quello che oltretutto voglio dire, il problema del personale non esiste, perché il personale potrebbe essere trasferito ai costi della Camera, eccetera. È un'altra cosa di cui io mi sono sempre chiesta, tra l'altro, perché mai tutta questa gente, questi 400 deputati, devono stare tutti in centro in palazzi storici che costano un sacco di soldi. Roma, che conosco abbastanza bene, è piena di centri direzionali semivuoti in zone non periferiche, semiperiferiche, dove potrebbero andare tutti quanti, come succede nelle aziende private. Un'azienda privata che non vuole più sostenere costi di affitti pazzeschi in centro riduce, vai, localizza. Allora questi qua pagati da noi non si capisce perché non prendono le loro gambette e non possono andare in uffici che costano un quinto di quello Tiziana, che è stata chiarissima. Tra poco le risponde il questore, prima vorrei Andrea D'Ancona. Andrea, buongiorno. Salve, buongiorno. Senta, guardi, io ho l'orticaria. Allora, io mi chiedo, innanzitutto faccio un grande in bocca al lupo al Movimento 5 Stelle, che continui così. Io voglio avere i nomi di chi ha sottoscritto questi contratti di locazione capestro. Beh, è stato detto, era all'epoca della Camera con la presidenza di Giuliano Violante. Ecco, benissimo, perfetto. Allora, questo 97. Deve essere sbandierato da tutte le parti, perché io ho fatto i conti, ogni singolo deputato solo per la locazione ci costa 80.000 euro. Che questi conti, grazie Andrea, e che questi conti siano eccessivi, questore, l'ha detto anche lei, Fontanelli, voi avete ereditato questa situazione. Allora, intanto è vero che Scarpellini ha provato a chiedere altri 9-18 anni, gli avete detto di no? Sì, sì, anche con la disponibilità ad abbassare, diciamo, il costo, però noi abbiamo detto di no, perché riteniamo che quella sia un'esperienza da chiudere. Che risponde? E penso anche rispetto alla signora che parlava, insomma, diceva anche delle cose fondate, giuste, ma il problema è oggi è quello di rivedere un po' quel modello. Io credo che appunto non si debba partire dall'idea che sia necessario garantire a tutti i deputati un ufficio. Penso che ci sia la possibilità di garantire ai deputati una serie di servizi. E cosa impedisce di farlo? Cioè che magari si può passare ad un modello diverso, si può prevedere per quei deputati che ritengono di avere bisogno dell'ufficio perché magari hanno il proprio collaboratore, eccetera, che non possono stare alla Camera perché non c'è posto e si sarebbero presi. No, ma è chiaro, ecco, possono magari uno può prevedere tramite certificazione. Sì. Anche un rimborso, anche il rimborso con una soglia e si risparmierebbe comunque. Ma un nuovo rimborso, questore Fontanelli, un nuovo rimborso, anche qui c'è il cittadino che dice: è chiaro che se io dico risparmierei comunque rispetto a quelle a dove risparmiamo senza rimborsi, cioè ci teniamo così facciamo un bel risparmio pieno. Però le chiedo, l'ascoltatrice che dice delocalizziamo in zona semiperiferica, cioè, e poi dice il personale assumetelo alla Camera, quello che Scarpellini minaccia di licenziare. Questo mi sembra fuori dal mondo, perché il personale alla Camera costa tantissimo. Credo che, insomma, noi abbiamo bloccato il turnover, il personale alla Camera è diminuito di più di 400 unità in questi anni e crediamo che, insomma, bisogna semmai razionalizzare, non aumentarlo. Sarebbe un costo pari e forse superiore, se ci mettiamo poi le proiezioni dal punto di vista previdenziale, dei 32 milioni che paghiamo oggi, insomma. Quindi questa mi sembrerebbe proprio una proposta non si può fare. Va bene, diciamo che noi continueremo a controllare questa situazione. Io vi ringrazio Paolo Fontanelli, PD, questore della Camera, ringrazio Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle, che immagino Fraccaro continuerà, insomma, a insistere su questo tema, a controllare affinché già da quest'anno no, si cancellino questi contratti considerati capestro per molti. Ci fermiamo qui per questa settimana con Elisabetta Fusconi, con Alessandro Marcotulli, con Miriam Lucchetti in redazione, con il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Siamo pronti a riaccogliervi da lunedì, potete seguirci su Twitter anche. Io sono Alino Milan, il mio profilo c'è 24 mattino, e alle 6:30 di venerdì lunedì prossimo noi razza di debosciati saremo qui. E voi? Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.